I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Sebastiano Barisoni. Mentre tutta l'attenzione sul dibattito della manovra si concentrava sul confronto tra regioni e governo, l'Istat ha diffuso un dato particolarmente importante per quello che riguarda l'attività e il ruolo degli enti locali per far ripartire l'economia. Sappiamo tutti infatti che non si potrà parlare di ripresa vera e propria finché non saranno cresciuti in maniera più significativa i consumi, ma soprattutto finché non saranno ripartiti gli investimenti pubblici, a partire proprio dagli enti locali. Ebbene, l'Istat ha calcolato che dal 2009 al 2014 gli investimenti delle amministrazioni locali siano letteralmente crollati del 33%, ossia 10 miliardi di investimenti in meno. Un calo che ha interessato tutte le più importanti voci di spesa, dai fabbricati meno 44% alle opere stradali meno 30% al genio civile meno 46%. Ecco perché è importante che il governo chieda agli enti locali, a partire dalle regioni, maggiore attenzione alle voci di spesa, ma era anche importante, sarebbe ancor più importante, che il governo, mettendo mano a una vera revisione della spesa, permettesse dei risparmi, pensiamo in primo luogo agli acquisti che devono essere maggiormente centralizzati da parte della pubblica amministrazione, e con questi risparmi riuscisse a liberare risorse per gli enti locali che, quando virtuosi, hanno un ruolo cruciale e decisivo nel far ripartire l'economia del territorio. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Con Salvatore Padula. Tra poco Renzi incontrerà le regioni per discutere di uno dei punti più controversi della manovra, ovvero il taglio, che secondo Renzi taglio non è, ai conti delle regioni. Sulla legge di stabilità, in questi giorni di audizioni al Senato, sono arrivati apprezzamenti insieme a tante critiche sulle scelte del governo. La Banca d'Italia ieri ha posto l'accento sulla timidezza con cui la legge di stabilità pone le basi per la riduzione del debito pubblico. La Corte dei Conti ha sollevato dubbi sul fatto che gran parte delle coperture previste dalla manovra siano fatte in deficit e quindi siano provvisorie. Significa che nel 2017 si riproporrà il tema di tagli di spesa che siano strutturali. Ecco, a tutti oggi ha risposto il ministro dell'Economia Piercarlo Padoan, spiegando che è un errore valutare la manovra con un giudizio limitato alle singole misure. Per Padoan è la filosofia della legge di stabilità che va capita. Una legge di stabilità, dice il ministro, che mette al primo posto le riduzioni fiscali per le famiglie e per le imprese, con il chiaro obiettivo di rilanciare i consumi e gli investimenti privati e anche con l'intento di sbloccare gli investimenti pubblici. Tutto bene, naturalmente, ma la domanda è ovvia: basterà tutto questo per la ripresa? Beh, qui sta la scommessa, o forse dovremmo dire anche il rischio, che il governo si è preso. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.